Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel 1984 Enzo Tortora viene arrestato dalla procura di Napoli con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico. Il nome di Tortora era stato fatto da alcuni camorristi pentiti. Solo più tardi si scoprirà che il nome da loro indicato era quello di un certo Tortona. Com'è stato possibile che un semplice scambio di consonante abbia potuto distruggere la vita e la carriera del celebre presentatore? A 20 anni dalla scomparsa di Enzo Tortora, Vincenzo Pezzuto ne ricostruisce la vicenda giudiziaria e il dramma umano nel suo libro Applausi e sputi, le due vite di Enzo Tortora. Il processo d'appello contro i superstiti 191 imputati del primo troncone si apre il 20 maggio in un clima di sfiducia e sospetti. Nel frattempo i suoi legali hanno avanzato un'istanza di trasferimento del processo per legittima suspicione in una differente corte d'appello. Per poter essere preso in considerazione, il documento, 27 pagine dattiloscritte con allegata una copiosa documentazione, deve però essere notificato entro 5 giorni a tutti gli altri 190 coimputati. Un'operazione praticamente impossibile per qualsiasi imputato e che evidenzia ancora una volta come il maxi processo sia un'aberrazione processuale che stritola il diritto alla difesa del singolo cittadino. Tortora riesce però nell'impresa grazie alla pronta mobilitazione del Partito Radicale. Si viene intanto a sapere che durante un processo contro 30 affiliati alla NCO che si stava tenendo a Santa Maria Capua Vetere, Giuseppe Puca ha dichiarato che Enzo Tortora non è mai stato camorrista. Lo avrei dovuto sapere, se non altro per il ruolo che occupavo nell'organizzazione. Poi ha estratto dalla tasca un biglietto con un numero di telefono e lo ha consegnato al presidente del tribunale. L'agendina sequestrata al momento del mio arresto a Lecce non è mia, ma di una ragazza che si trovava con me, Assunta Catone. Questo è il numero di Enzo Tortora, ma non del presentatore, di un imprenditore di Salerno. Controllate se volete. La stessa Catone ha confermato in aula le sue parole, precisando però che la trascrizione del cognome fatta dai carabinieri è sbagliata. Trattasi di Tortona e non di Tortora. Il presidente radicale esulta e scrive sul Secolo XIX. Da ieri possiamo finalmente dare una risposta alla giusta domanda che milioni di italiani si sono posti a proposito del mio caso. Ma perché proprio Tortora? È una risposta a dir poco agghiacciante, rivelatrice di uno spaccato di Italia giudiziaria da mettere i brividi. Proprio in quel marzo 1983 i giudici si trovano davanti al favoloso Pandico, al quale sottopongono la bella scoperta. Enzo Tortora è camorrista. Il suo nome è addirittura con due bei numeri di telefono sull'agenda del Puca. Così entra il nome di Tortora in questo vergognoso affare. Vergognoso per la giustizia, si intende. Nel novembre 1983 la signora Catone si presenta dal giudice istruttore Fontana per rivendicare la proprietà dell'agenda e soprattutto per ribadire che il nome segnatovi non è quello di Enzo Tortora, ma di Enzo Tortona. Venne trattata malissimo. Il giudice Fontana, sono parole testuali della Catone, sembrava in preda alle smanie. Si capisce benissimo il perché di quelle smanie, tutt'altro che goldoniane. Gli crollava il tetto, svaniva il colpo del secolo. La Catone, rea di aver detto la semplice verità, se ne uscì con una bella imputazione da 416 bis. Si sarebbero dati da fare in un altro modo, pur di non arrendersi, e infatti, nel marzo 1984, i pentiti trovarono Melluso. A leggere adesso sui giornali le cronache di quelle 27 udienze del processo di appello, si ha l'impressione che l'istruttoria dibattimentale si sia conclusa senza apparenti colpi di scena, e invece sono stati troppi e tutti a favore dell'imputato Tortora. Questi fatti, denuncia Pannella, avrebbero mobilitato per giorni radio e televisioni, prime pagine dei giornali, se fossero andati contro Tortora e contro la verità. Le grandi firme associate sembrano aver accolto, di fronte al disastro che dovrebbero ora raccontare dell'accusa, l'invito ad astenersi dopo essere state prese con le penne nel sacco. Ma in realtà operano, perché si astengono ora, le loro testate e i loro direttori. E sembrano riuscirci. Sono in effetti ben pochi i cronisti che hanno voglia di raccontare la smobilitazione nelle fila della Nazionale della Menzogna che si registra in quella primavera del 1986 e che fa crollare il castello delle accuse. Il tramonto del pentitismo, di questo pentitismo, è infatti colorato dalle ritrattazioni a catena di molti suoi giocatori titolari. Dopo Roberto Sganzerla, fa marcia indietro anche Michelangelo D'Agostino. «Giuro sulla tomba di mio padre che Tortora con la Camorra non c'entra. L'ho accusato su sollecitazione del giudice istruttore Spirito per avere in cambio il permesso di rendere omaggio alla tomba di mio padre. Mi scuso con lui per il male che gli ho fatto. In questo sono stato un infame. E poi, signori giudici, non vi pare strano che lo abbia accusato a 8 mesi dal mio pentimento? La verità è che i magistrati avevano paura che, uscendo Tortora dall'inchiesta, sarebbe saltata la bottiglia con tutto il tappo. Ma vi siete chiesti come mai, pur essendo Tortora un personaggio di copertura, anche le pedine più piccole dell'organizzazione, a dire dei pentiti, erano al corrente della sua affiliazione? È quindi la volta di Salvatore Federico. Fui costretto a inventare che Tortora era stato a casa di Rosetta Cutolo, a Ottaviano, su suggerimento di Guido Catapano, che voleva che io avvalorassi le sue dichiarazioni di colpevolezza su Tortora, e di Mario Incarnato. Tortora è innocente. Del resto non ho mai detto che ha fatto questo e quello. Ho sempre detto di averlo sentito dire. L'ex cassiere di Turatello, Mario Astorina, smentisce l'appartenenza di Melluso al clan del boss milanese e soprattutto denuncia che nel settembre 1983 Marco Medda, un luogotenente di Cutolo, è stato condotto dal carcere della Sinara nella caserma dei carabinieri di Abbasanta per essere sottoposto a torture psicologiche e fisiche. Era presente anche Pandico, aggiunge, vestito con una divisa da ufficiale dei carabinieri, il quale, per convincere Medda a pentirsi, gli avrebbe mostrato e offerto una notevole somma di denaro. Ammette a sua volta Pasquale D'Amico: «Ho firmato i verbali senza averli letti. Melluso non ha mai conosciuto Califano, Tortora e Turatello». Con un telegramma da New York, dove si trovava detenuto, l'affarista Francesco Pazienza nega di essersi mai incontrato con Melluso, per di più alla presenza di Tortora, mai visto in vita mia, se non in TV, e di Roberto Calvi. All'epoca non lo conoscevo neppure. Questa girandola di smentite e affermazioni improbabili ha però interessato ben poco i giornalisti, molti dei quali fiutano preoccupati il cambiamento di vento nell'aula bunker. Il presidente Antonio Rocco e i giudici all'atere Michele Morello e Carmine Ricci danno l'impressione di voler verificare per la prima volta l'attendibilità di ogni dichiarazione. Stavolta i giudici non giocano a Tetris. La verità non deve più essere forzata a ogni costo nell'angusto rettangolo di un teorema. Avete ascoltato alcuni estratti dal libro di Vincenzo Pezzuto, Applausi e sputi, le due vite di Enzo Tortora, Sperling e Kupfer Editori, 521 pagine, 12,75 €. Letture di Radio 24. Nel centenario della nascita di Giovannino Guareschi, Guido Conti racconta la vita del popolare autore dei romanzi di Don Camillo e Peppone. Le prime immagini di Giovannino sono del 1911. In una fotografia è ritratto insieme con la madre che lo tiene fermo davanti a sé e le 43 allieve dell'anno scolastico 1911-1912. Più che un bambino sembra una bambina col broncio, con il vestito della festa di velluto, sandaletti e un grande colletto di pizzo bianco. Un'altra fotografia lo ritrae sempre con la classe dell'anno scolastico 1913-14, l'ultimo in cui Lina insegna a Fontanelle. In un pezzo del 1966 pubblicato su Oggi, 2 anni prima di morire, Giovannino è ormai un vecchio stanco, ammalato di cuore, e ripensa alla sua infanzia felice, quando i bambini, una volta vestiti, si lasciavano andare fuori casa con un pezzo di pane in mano che bastava per tutto il giorno. Allora non c'erano macchine, non c'erano pericoli. Ed estate, sulle strade, si ammucchiavano centimetri di candida polvere. È una cosa meravigliosa sedersi nella polvere morbida e calda. quel tepore mi scalderà ancora per tanti anni e sicuramente anche nella vecchiaia, mentre sta scrivendo il pezzo. E quando il sole martella, come sa martellare solo alla bassa, è meraviglioso sedersi nella sabbia umida e fresca in riva al fiume, lasciandovi l'impronta. Per Giovannino, i primi 6 anni passano nella spensieratezza e nell'anonimato, correndo lungo i fossi, sugli argini, lungo le strade silenziose della bassa, attraversata da qualche carrettiere che dorme buttato sulla sabbia umida, perché tanto il cavallo sa la strada, con i contadini che lavorano a gruppi a tagliare l'erba con la falce o a raccogliere i pomodori, che si stanno diffondendo come cultura intensiva. D'estate il frinio delle cicale è una lima che rode nell'aria in maniera ossessiva e a volte si sente solo il ronzio delle mosche nelle stalle, con l'abbaiare dei cani che di notte si perde sotto la volta del cielo. Il piccolo Giovannino vive, immerso nella bellezza della natura, uno dei rari periodi di grande felicità e tranquillità della sua vita, anni sempre rimpianti durante un'esistenza tribolata e faticosa. Un'infanzia passata a cacciare lucertole, come facevano tutti i bambini della bassa, alla ricerca di nidi tra le siepi, a mangiare la frutta matura sugli alberi, come quando lo sorprendono a rubare le susine nell'orto del vicino. I rapporti tra i suoi genitori sono difficili a causa degli affari di Augusto. Scarseggiano i soldi per le spese primarie, allevare Nino costa. I battibecchi non mancano, come in qualunque famiglia. E la lunga serie di affari fallimentari di primo Augusto logora anche il rapporto sentimentale. Lui continua, durante le sue trasferte, a mandare cartoline affettuose alla moglie. Quando sono insieme litigano, quando sono lontani si cercano. Primo Augusto chiede sempre notizie del suo piccolo Nino. Nino cosa fa? La tosse gli è diminuita? Domani procurerò a lungo scriverti. Baci a Nino. E sul fronte della cartolina il disegno di un bambino e la sua scritta in dialetto parmigiano, affettuoso e paterno. Nino Taben. Intanto il dissesto economico della famiglia sembra inarrestabile. Nel 1910 vendono la casa dove è nato Giovannino, casa Balocchi, alla Cooperativa Rossa che affitta di seguito la casa allo stesso Augusto. Lina acquista una casaccia e una casetta più piccola sulla provinciale San Secondo Rocca Bianca. Mancano 3.000 lire per chiudere il conto che vengono prestate da un avvocato previa ipoteca intestata a un altro avvocato amico, come si può leggere nei documenti d'archivio. La casaccia, rimodernata, color rosa, con 2 spazi a piano terra da adibire a negozio e bellissime donne in fregio sotto il tetto, è un gioiello e diventerà Villa Magenzani. Per pagare quei debiti viene rimessa a nuovo anche l'altra casetta che poi, sotto la pressante richiesta di pagamenti, verrà venduta. Ma servono altri soldi per pagare i mutui e cominciano a comparire le prime citazioni. I debiti diventano tanto pressanti che Lina non riesce a salvare il salvabile. Villa Magenzani verrà venduta alla società anonima cooperativa agricola di consumo e produzione denominata Casa dei Socialisti di Fontanelle. Una casa dal destino avverso, come si vedrà negli anni a venire. La famiglia Guareschi se ne va dalla bassa, definitivamente. Anche per il piccolo Giovannino il trasferimento sarà una svolta importante nella sua vita. Lina viene trasferita a Parma. Con grande dolore se ne va da Fontanelle, come si legge nel suo diario. Trasferimento nel 1914 a Marore di San Lazzaro Parmense. Un dolore l'allontanamento dal paese caro, poiché in esso lascio gli scolari, i miei morti, le colleghe e il rimpianto, perché lì ho passato le mie ore più belle. Ma Lina dimostra di essere donna forte, capace di affrontare di petto le situazioni nuove. Il 22 ottobre 1914 arrivo in bicicletta dalla città a Marore, villa a pochi chilometri. Oh, nulla mi fa paura. Salute ferrea, il desiderio sempre più grande di lavorare per il benessere dei bambini mi fanno sembrare attraente la sede dell'edificio scolastico. Un'aula più bassa del livello della strada, ricavata a pian terreno di una palazzina tra le 2 ville di Coloreto e Marore. 100 sono gli alunni delle 2 frazioni in un primo tempo, le 3 classi e la scuola tecnica. La posizione amena della villa, la frequenza lodevole degli alunni e il loro amore allo studio mi fanno amare la nuova sede a tal punto di anteporre il lavoro a tutto, anche agli affari e agli affetti. Pensando alla neve, alla pioggia e al vento, agli inverni difficili di quel tempo, su strade non asfaltate, non deve essere stato facile andare in bicicletta tutti i giorni, da Parma a Marore, oggi quasi inglobata nella prima periferia della città, ma allora fuori le mura, a più di 1 ora dal centro. Anche l'ammissione di fede in una salute ferrea è un gesto scaramantico. Nel suo diario, Lina convince prima di tutto se stessa a trovare motivazioni esistenziali e lavorative in un momento difficile, non solo economicamente. Il suo lavoro di insegnante resta l'unica entrata certa della famiglia. La famiglia Guareschi affitterà un appartamento studio e abitazione a partire dal 1 ottobre del 1914 in vicolo Volta Ortalli al numero 3, in pieno centro. Giovannino si distacca dalla campagna e dalla natura per andare a vivere in città, facendo la spola con Marone. Tornerà ad abitare nella Bassa, a Roncole, molti decenni dopo, quando i suoi sogni di possedere una casa per sé, per sua moglie e i suoi figli, diventeranno realtà con i soldi guadagnati dal duro lavoro di una vita, con la vendita dei libri della serie di Don Camillo. Avete ascoltato la lettura di un brano dal libro di Guido Conti, Giovannino Guareschi, biografia di uno scrittore. Rizzoli Editore, 590 pagine, 21,50 €. Giovannino Guareschi è ricordato soprattutto per le divertenti avventure di Don Camillo e Peppone. Pochi conoscono invece il suo impegno civile e culturale. A questa lacuna cerca di porre rimedio il libro di Marco Ferrazzoli, Non solo Don Camillo. Ascoltiamo nella lettura dell'introduzione. Secondo Indro Montanelli, la storia del XX secolo la si può fare senza chiunque altro, ma non senza Guareschi. Non è un'esagerazione amicale, ma una constatazione storica, una deduzione incontrovertibile, anche solo limitandosi al fondamentale episodio cui Montanelli fa riferimento, le elezioni del 1948. In quelle consultazioni si tratta, in senso non troppo metaforico, di impedire ai cosacchi di avvicinarsi alle fontane di San Pietro. La vittoria del Fronte Democratico Popolare, guidato dai comunisti, precipiterebbe l'Italia nell'orbita del Patto di Varsavia. Le divisioni di Stalin sono pronte. L'Italia rischia non un semplice cambio di governo, bensì una rivoluzione vera e propria, seppure mediata dal consenso delle urne. In quelle cruciali elezioni Giovannino Guareschi è, insieme all'Azione Cattolica e ai comitati civici, uno dei principali artefici della vittoria della Democrazia Cristiana e dunque della salvaguardia della democrazia, in particolare realizzando due celeberrimi manifesti. In uno, un elettore viene avvertito dalla scritta «Nel segreto della cabina elettorale, Dio ti vede, Stalin no». Nell'altro, lo scheletro di uno dei 100.000 prigionieri italiani non tornati dalla Russia implora «Mamma, votagli contro anche per me». Come dice ancora Montanelli, c'è un Guareschi politico cui si deve la salvezza dell'Italia. Se avessero vinto gli altri, non so dove saremmo andati a finire, anzi, lo so benissimo. Tra gli altri episodi più importanti, poi, ricordiamo che già prima della guerra Guareschi è un giornalista celebre. Sul settimanale umoristico Bertoldo è ammirato e amato anche da molti esponenti del regime, che però non gli eviteranno censure, rimproveri e infine l'arruolamento forzato. Nel 1943, essendosi rifiutato di combattere con i tedeschi, viene tradotto nei lager nazisti, divenendo una figura di spicco della Resistenza Bianca. Al rientro fonda e dirige Il Candido, il maggior settimanale politico satirico del dopoguerra. Nel 1946 sostiene la campagna in favore della monarchia al referendum istituzionale. Diviene un opinion leader e uno dei più feroci fustigatori del partitismo, oltre che il più noto polemista anticomunista. Nel 1953 finisce in carcere per la pubblicazione di articoli ritenuti diffamatori su Einaudi e De Gasperi, rispettivamente Presidente della Repubblica e leader della DC. Già questa prima sommaria lettura della biografia di Guareschi, della sua vita e delle sue opere, dimostra come l'autore di Don Camillo sia stato uno dei più importanti intellettuali civili italiani del Novecento, anche se probabilmente egli stesso avrebbe contestato questa definizione. Naturalmente ci sono anche i libri del Mondo Piccolo e molti altri, che hanno venduto milioni di copie, sono stati tradotti in tutto il mondo, inclusi i paesi dell'Est, e hanno ispirato film il cui successo prosegue a decenni di distanza. Ma forse proprio a questo successo si devono un paradossale equivoco, il fraintendimento e l'edulcorazione dei contenuti culturali e politici di Guareschi e una grave sottovalutazione della sua statura morale e della sua importanza storica. Un rischio che Gigi corre a causa non solo dei nemici ansiosi di minimizzarne l'importanza, ma anche di taluni amici, peraltro fuorviati dalle sue frequenti ed esplicite dichiarazioni contro la politica, l'ideologia, l'impegno e la cultura, che sembrano confermarne l'immagine di pensatore debole, di bozzettista a tinte neutre, di scrittore ignorante. Le battute, però, non possono confutare i dati fondamentali. La politica è stata la grande passione di Guareschi giornalista, che è un autore centrale della nostra letteratura e un rarissimo esempio di coerenza umana e intellettuale, tra predica e pratica. La difficoltà nell'attribuirgli la definizione di intellettuale civile può essere giustificata, quindi, solo se la si confonde con quella di intellettuale organico. Guareschi non ha mai la tentazione di trasformarsi in un agitprop sotto l'etichetta dell'impegno. Sia per ragioni di onestà personale, tant'è che aiuta la DC ai suoi esordi e quando è il momento di passare alla cassa se ne allontana, sia perché, pur essendo schierato, non è mai discriminatorio, sia, soprattutto, perché non si pone né sotto il potere né sopra le masse. Gigi è sempre vicino alla gente, ai lettori. Sono un uomo comune, quindi mi pare, parlando di me e dei miei, di fare un po' la storia dei milioni di uomini comuni che con la loro assennata mediocrità tengono in piedi la baracca di questo mondo. Avete ascoltato la lettura dell'introduzione del libro di Marco Ferrazzoli, Non solo Don Camillo, l'intellettuale civile Giovannino Guareschi. Edizioni L'Uomo Libero, 128 pagine, 10 euro.